Signore e signori, sono le 7 del mattino di una nuova giornata, nello specifico di giovedì 13 di settembre. Chi vi parla è il DJ Ariele, detto anche l'Ariele, detto Coso, detto l'Ariele Frizzante, detto Mister Granchio. Sì, ciao, sono io. Devo leggere lo spadino, mio caro regista, oggi che giorno è? Che per me in realtà è ancora ieri. È una giornata lunghissima che continua a non terminare. Siamo qui, lo staremo fino alle 9 del mattino, in rigorosa diretta, perché siamo stati programmati per condividere il mattino insieme a voi, per far svegliare ogni giorno tutti quanti i radioascoltatori e le radioascoltatrici di Rock FM. Non garantisco sulla trasmissione di quest'oggi. Intanto già è buona che ci siamo, Spadino. Ci spariamo una sigla? Sigla! Pane, burro e rock and roll, la tua colazione rock. Speciale con l'Ariele messo male, via! Pane, burro e rock and roll. La tua colazione rock. Pane, burro e rock and roll. It's very good indeed. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Giorno aumentano gli amici e le amiche che fanno colazione insieme a noi di Rock FM, quella che noi chiamiamo pane, burro e rock and roll. Sai che inizio le frasi, Spadino, e non riesco a vedere la fine. Ci sarà anche Roberto Fricantoni, spero più in forma di me, dovrebbe arrivare a secondi nei nostri studi di via Locatelli 1, 20-124 Milano. Sarà divertente dividere queste due ore di diretta insieme a voi. Saluto subito al volo un sms di un amico che ieri ha intravisto anche la puntata televisiva di Rock TV e oggi è arrabbiato perché dice: mi sono svegliato in testa con il motivetto di ieri. Ma quale? Quello della televisione o il motivetto dei Rolling Stone? Perché io, a parte i pochissimi minuti di sonno, questa mattina troppo che ci avevo in testa She's a Rainbow, il brano che ci siamo ascoltati per due giorni di seguito. A voi no? No, fa strano, volevo capire se magari era entrato in testa anche a voi. Spadino no, vabbè. Iniziamo con la buona musica, quella c'è, resta sempre e in qualsiasi condizione spacca sempre tutto. Yardbirds, For Your Love. Restate su pane, burro e rock and roll, oggi se ne sentono delle belle. Things that will excite and make you dream of me at night. Make make you dream of me at night. I love Yardbirds, 7-5 minuti del mattino. Vi vedo belli svegli a voi là fuori invece. Mi fa piacere, stateci vicini nella puntata di quest'oggi. Ne approfitto per ricordare il nostro numero di SMS. Molti di voi lo ricordano a memoria e molti di voi già lo hanno memorizzato nei loro marchingegni telefonici piccoli e portatili. Per tutti gli altri ricorderò il 335 1007777. Questa è la coordinata principale per entrare e interagire con noi di Pane, Burro e Rock and Roll. Volendo invece a vostra disposizione anche una casella di posta elettronica che risponde al mio nome. Sapete qua il capo sono io, quindi l'indirizzo esatto è ariel@radiorockfm.com. Già che ci siamo in tema di coordinate, perché non ricordarvi anche il nostro sito internet, sito di riferimento di Rock FM, molto semplicemente www.radiorockfm.com. caldeggiamo sempre la possibilità di riascoltare Pane, Burro e Rock and Roll senza forse il fascino della diretta, ma sicuramente col fascino di quello che è andato in onda ogni giorno nei programmi in archivio. Ho detto una cosa che aveva senso, Spadino? Bene, molto bene. Tu guardami, Spadino, questa mattina, eh? E fammi con la testa così se sta andando bene, così se capisci che la frase che ho preso non andava da nessuna parte. Anche quest'oggi una Milano abbastanza cupa, quella che si intravede dall'oblò che si tuffa nella via grossa là fuori. E qualcuno di voi là fuori dirà: ma chi ce frega, ma chi ce importa se l'oste al vino ci ha messo l'acqua. E allora Spadino mi agevola i Genesis. Solo il meglio per voi nella colazione di Rock FM. Tonight, tonight, tonight. Era meglio stamattina, stamattina, stamattina. You can't see, but it's alright. Try to shake it loose, cut it free, just let it go. Just get it away from me. Oh, oh, oh. 'Cause tonight, tonight, tonight. Money in my pocket. Ooh. Non posso resistere. A cosa? Ah, sì, sì, non mi posso trattenere. Non si trattenga. No, devo farlo. No. Arrivati a questo punto, devo dirlo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a io tutti. Io che mi andavo a credere così di prima mattina. No. Con quegli occhietti da furbetto, con la colazione ancora lì che balla. Non è facile a quest'ora, starle dietro. A quest'ora è doveroso. Buongiorno, maestro. Buon giovedì 13 di settembre. Bentrovati. Sa perché le ricordo la data di quest'oggi? Dica. Non vorrei che lei volesse ritirarsi dal compito di fare l'almanacco. Assolutamente. Ah, dice per il giorno, per i miei vezzi scaramantici. Perché no. Il 13? No, no. No, assolutamente. Facciamolo. Nel facciamolo 13, nel con 17. Impegno. Non lo farò mai. No, lo nel faccia. 13, nel 17. E allora inizio io, grazie a Spadino per guardi la base. La superstizione porta sfortuna, ah, davvero. Yeah. Allora, guardi, mentre mi tocco, il 13 di settembre del 1321, per iniziare la grande, muore Dante Alighieri. Oh, porra, vede che avevo ragione. Ravenna. Vede che il 13 porta un po' scalogna o scarogna. Sicuramente non ha portato male al buon Hannibal Wilson Goodwin, che il 13 settembre dell'898 brevettò la pellicola fotografica in celluloide. Certo. Passerei ad un'altra notizia. Sì, una notizia doverosa di cronaca. Proprio qualche giorno fa parlavamo dell'invenzione del nome Maratona, dell'origine del nome Maratona, è proprio il 13 settembre del 1970. Abbiamo la prima edizione della Maratona di New York. Ah, quando la correrà, maestro? Prestissimo, mi sto allenando. La prossima? Sì, quella successiva. Quella credo. Dopo ancora, forse. Quella dopo ancora, sì, mi sto allenando strenuamente. Scherzo, lei sa che la mia religione mi impedisce qualsiasi sforzo fisico. Sicuramente la sua religione non le impedisce di sapere chi è Super Mario Bros. Ma certo, il famoso celeberrimo, ma che dico celeberrimo, ultra iper conosciuto. E nasceva proprio il 13 di settembre del 1985 dalla Nintendo. Il gioco della Nintendo, Super Mario Brothers. Bene. Sa che non l'avevo mai sentito, Super Mario Brothers? Però è vero. Bros, sì. Bros. Mario e Luigi quando sarà nato? Non insieme lo so, a lui devo, o dopo? Devo fare un la po' di ricerca. I funghetti per diventare invincibile? Accidenti, ma lei sa tutto. A proposito mi di sta funghetti, mettendo in difficoltà. Guardi qui che cos'ho per lei. Accidenti. Questo funghetto di cioccolato di prima non mattina. Non era cioccolato. No, volevo dire, questo funghetto di Nutella. Non di era prima, Nutella. Non era Nutella. Questo funghetto di panettone. Non era panettone, era acido lisergico. Ah, ecco perché sto vedendo cavalli bianchi dalla finestra. Molto bene. But I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone on the barrow. I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Yeah. So I'm easy. Yeah. I'm easy like Sunday morning. Thank you. Sunday morning. Strepitosa versione cantata da Mike Patton e targata ovviamente Faith No More. Ah, e si intitola solo un po' come fa Pino Daniele, no? Come fanno i grandi chitarristi che oltre a suonare la nota con la chitarra la canticchiano anche. È segno di... cioè, solo i grandi chitarristi sono capaci di farlo. Io infatti, non essendo un grande chitarrista, so farlo solo su un disco. Però è già qualcosa. È l'allenamento per poi arrivare a farlo tutto da solo. Ma non c'entra niente. Vi ho ricordato le coordinate. Quest'oggi veramente particolarmente gentili, particolarmente buoni. In molti mi salutano e si complimentano per la puntata di Rock TV di ieri pomeriggio. E noto che in tutti questi commenti si esprime solidarietà a me e agli operai del rock and roll presenti in questa suddetta puntata. Per chi non l'avesse vista, per chi non sapesse di cosa sto parlando, Rock TV è un canale satellitare su Sky, quelle robe lì un po' strane, e chiamandosi Rock TV potete immaginare che è una televisione rock. E ieri abbiamo fatto questa diretta di un'ora, nella quale, vi dirò una cosa, i messaggi cattivi nei nostri confronti erano finti, li avevamo scritti noi. È stata un'ora di insulti, fondamentalmente. Si chiama comicità. In molti scrivono dicendo: no, però a noi invece piaci. Mi fa piacere, grazie mille. So che siete in squadra con me e ricordatevelo, anch'io sono in squadra con voi. Ecco, volevo salutarvi in tanti e invece non ho fatto a tempo perché devo correre con i Whitesnake di Here I Go Again. Ci proverò nella prossima mezz'ora, perché sono le 7:23 minuti e alle 7:30 vi svegliamo di nuovo. Vivere oggi. Lavoro, impegni e finalmente... Pane, burro e rock and roll. Perché ti vuoi bene.